Ogni idea porta in sé la possibilità della sua confutazione. Ogni parola, la parola contraria. In ogni caso, se era vero, era tutta questa inutile verità sulla vita d'un amante che non c'è più, a risalire adesso dal profondo, ad apparire, adesso che non sappiamo più cosa farne. E allora, pensando probabilmente a qualche altra che amiamo adesso e a proposito della quale potrebbe succedere la stessa cosa, visto che di quella che si è dimenticata non ci si preoccupa più, cadiamo nell'afflizione. Ci diciamo, se fosse viva. Ci diciamo, se quella che è viva potesse capire tutto questo, capire che quando sarà morta io saprò tutto ciò che mi nasconde. Ma è un circolo vizioso. Se avessi potuto far sì che Albertine fosse viva, nello stesso istante avrei voluto che André non m'avesse rivelato nulla. È un po' la stessa cosa dell'eterno «vedrete quando non vi amerò più», che è tanto vero e tanto assurdo, giacché in effetti se non si amasse più si otterrebbe molto, ma non ci si curerebbe più di ottenerlo. Anzi, è esattamente la stessa cosa. Perché la donna che rivediamo non amandola più, se ci dice tutto è perché in effetti non è più lei, oppure siamo noi a non essere più noi. L'essere che amava ha smesso di esistere. Anche là è passata la morte, rendendo tutto facile e tutto inutile. Facevo queste riflessioni accettando l'ipotesi che André dicesse il vero, il che era possibile, e fosse indotta ad essere sincera con me proprio perché con me, adesso, aveva dei rapporti. Per quello stesso riflesso Saint-André des Champs, cui aveva obbedito all'inizio nei miei confronti, Albertine. A spingerla a questo, nella fattispecie, era anche il fatto che non aveva più paura di Albertine, già che per noi la realtà degli esseri non sopravvive a lungo alla loro morte, e dopo qualche anno sono come quegli dèi delle religioni abolite cui si reca offesa senza timore perché si è smesso di credere alla loro esistenza. Ma Saint-André non credeva più all'esistenza di Albertine. Poteva conseguirne che non avesse più timore non soltanto di tradire una verità che aveva promesso di non rivelare, ma anche di inventare una menzogna che calunniasse retrospettivamente la sua pretesa complice. L'assenza di timore le permetteva di rivelare, infine, dicendomi queste cose, la verità, oppure di inventare una menzogna se per qualche ragione, credendomi pieno di felicità ed orgoglio, voleva darmi un dolore. Forse era irritata con me. E aveva trattenuto la sua irritazione fin tanto che m'aveva visto infelice e sconsolato, perché avevo avuto rapporti con Albertine e forse mi invidiava, credendo che io mi ritenessi per questo più favorito di lei, un vantaggio che lei forse non aveva ottenuto e nemmeno desiderato. Spesso così l'avevo vista dire che le trovava male a persone che la esasperavano con la loro bella cera e soprattutto con la loro consapevolezza d'avere una bella cera, aggiungendo, nella speranza di farle arrabbiare, che lei stava benissimo. Cosa che non cessò di proclamare quando stava nel peggiore dei modi, sino al giorno in cui, nel distacco della morte, non le importò più nulla che i fortunati stessero bene e sapessero che lei stava morendo. Forse era irritata con me per chissà quale ragione, così come un tempo aveva avuto un attacco di rabbia contro il giovanotto così esperto di cose di sport e così ignorante del resto che avevamo incontrato a Balbec e che era poi andato a vivere con Rachel e sul conto del quale André si diffondeva in discorsi diffamatori sperando d'essere querelata per calunnia e poter così accusare il padre di lui di fatti disonorevoli di cui quello non avrebbe potuto provare la falsità. O forse la rabbia contro di me l'aveva solo ripresa, essendo probabilmente cessata quando m'aveva visto così triste. In effetti, persino a quelli che aveva desiderato con gli occhi scintillanti di rabbia disonorare, uccidere, far condannare, fosse anche in base a false testimonianze, non appena li sapeva tristi, umiliati, non voleva più alcun male. Era pronta a colmarli di premure. Fondamentalmente, infatti, non era malvagia. E se la sua natura non apparente, un po' profonda, non era la gentilezza, come facevano credere a tutta prima le sue delicate attenzioni, ma piuttosto l'invidia e l'orgoglio, la sua terza natura ancora più profonda, quella vera, ma non interamente realizzata, tendeva verso la bontà e l'amore del prossimo. Semplicemente, come tutti gli esseri che trovandosi in un certo stato ne desiderano uno migliore, ma conoscendolo solo col desiderio non capiscono che la prima condizione è rompere con il primo, come i nevrastenici o i morfinomani che vorrebbero sì guarire, ma che non li si privasse intanto delle loro manie o della loro morfina, come i cuori religiosi o gli spiriti d'artista che legati al mondo aspirano alla solitudine ma vogliono rappresentarsela come se non implicasse una rinuncia assoluta alla loro vita anteriore, André era pronta ad amare tutte le creature, ma a condizione di riuscire prima a non rappresentarsele come trionfanti e dunque di umiliarle preventivamente. Non capiva che bisogna amare anche gli orgogliosi e vincere il loro orgoglio con l'amore e non con un orgoglio più potente. Il fatto è che era come quei malati che pretendono di guarire con gli stessi mezzi di cui si alimenta la malattia, mezzi che amano e che smetterebbero d'amare nel momento stesso in cui li rifiutassero, ma si pretende di imparare a nuotare continuando a tenere un piede a terra. Per quanto concerne il giovane sportivo, nipote de Vertorin, che io avevo incontrato durante i miei due soggiorni a Balbec, bisogna dire in via accessoria e anticipando che qualche tempo dopo la visita di André, visita il cui racconto verrà ripreso fra un istante, accaddero alcuni fatti che suscitarono una certa impressione. Innanzitutto, forse per ricordo di Albertine, che come allora ignoravo aveva amata, egli si fidanzò con André e la sposò, nonostante la disperazione di Rachel, di cui non tenne alcun conto. Allora, cioè qualche mese dopo la visita in questione, André non disse più che era un miserabile, e più tardi mi resi conto che, se lo aveva detto, era solo perché ne era pazza e credeva che lui non volesse saperne. Ma un altro fatto fece più scalpore. Il giovanotto fece rappresentare dei piccoli sketch con scene e costumi suoi che hanno portato nell'arte contemporanea una rivoluzione almeno pari a quella realizzata dai balletti russi. In breve, i giudici più qualificati considerarono le sue opere come qualcosa di decisivo, quasi delle opere di genio, e io, d'altronde, la penso come loro, ratificando così, non senza stupore, la vecchia opinione di Rachel. Le persone che a Balbec l'avevano visto, preoccupato solo se il taglio dei vestiti di chi doveva frequentare fosse o non fosse elegante, passare tutto il tempo al baccarà, alle corse, al golf o al polo, che sapevano come a scuola fosse sempre stato un somaro e si fosse fatto persino cacciare dal liceo, per fare dispetto ai genitori era andato ad abitare 2 mesi nel grande bordello dove Charlie aveva pensato di sorprendere Morel, pensarono che le sue opere, forse, erano di André. Che per amore voleva lasciargliene la gloria o, più probabilmente, che con il suo grosso patrimonio personale, appena intaccato dalle sue follie, pagava perché gliele facesse qualche professionista geniale e bisognoso. In questo ambiente di gente ricca, non dirozzata dalla frequentazione dell'aristocrazia e del tutto ignara di cosa sia un artista, che per loro è soltanto l'attore che chiamano a recitare un monologo per il fidanzamento della figlia, consegnandogli subito discretamente il suo compenso in un salotto vicino, o il pittore nel cui studio la fanno posare dopo il matrimonio e prima dei figli, quando fa ancora la sua figura, si crede infatti volentieri che tutte le persone di mondo che scrivono, compongono o dipingono si facciano fare le loro opere, pagando per avere una reputazione da autore, come altri per assicurarsi un seggio in Parlamento. Ma tutto ciò era falso. E quel giovanotto era l'autore di quelle opere ammirevoli. Quando lo seppi, dovetti esitare fra diverse supposizioni. O per lunghi anni era effettivamente stato il bruto a prova di bomba che sembrava essere e qualche cataclisma psicologico aveva risvegliato in lui il genio assopito come la bella addormentata nel bosco, o ai tempi del suo burrascoso liceo, delle sue bocciature alla maturità, delle sue grosse perdite al gioco in quel di Balbec, della sua repulsione a salire sul tram con i malvestiti fedeli di sua zia Verdurin, era già un uomo di genio, forse distratto dal proprio genio, messo da parte nell'effervescenza delle passioni giovanili, o magari, chissà, uomo di genio già consapevole e così scadente a scuola perché mentre il professore diceva delle banalità su Cicerone, lui leggeva Rimbaud o Goethe. Certo, Niente lasciava intravedere quest'ipotesi quando lo incontrai a Belbec, dove le sue preoccupazioni mi parvero rivolte unicamente al corretto attacco dei cavalli e alla preparazione dei cocktails. Ma non è un'obiezione irrefutabile. Poteva essere molto vanitoso, cosa che può combinarsi con la genialità, e proporsi di brillare nel modo che sapeva adatto a rifulgere nel mondo in cui viveva e che non consisteva certo nel dar prova di una conoscenza approfondita delle affinità elettive, ma piuttosto dell'arte di condurre un tiro a quattro. D'altronde, non sono affatto sicuro che anche dopo, diventato l'autore di quelle belle opere tanto originali, gli facesse molto piacere, fuori dai teatri in cui era conosciuto, salutare qualcuno che non fosse in smoking, come i fedeli prima maniera, il che avrebbe denotato in lui non stupidaggine, ma vanità, e persino un certo senso pratico, una certa lungimiranza nell'adattare la propria vanità alla mentalità degli imbecilli alla cui stima teneva e per i quali lo smoking brilla forse d'un fulgore più vivo dello sguardo d'un pensatore. Ma chi può dire se, visto dal di fuori, un uomo di talento, o magari senza talento, ma amante delle cose dell'intelletto, per esempio io, non avrebbe fatto a chi l'avesse incontrato a Rivebel, all'hotel di Balbec, sulla diga di Balbec, l'impressione del più perfetto e pretenzioso imbecille. Senza contare che per Octave le cose dell'arte dovevano essere qualcosa di talmente intimo, di così nascosto nelle più segrete pieghe della sua personalità, che certo non gli sarebbe mai venuto in mente di parlarne come avrebbe fatto, mettiamo, Saint-Loup, per il quale l'arte aveva il prestigio che i tiri a quattro avevano per Octave. Inoltre poteva avere la passione del gioco e si dice che l'abbia conservata. Con tutto ciò, se la pietà che fece rivivere l'opera sconosciuta di Vinteuil è uscita dal torbido ambiente di Montjovin, non fui meno colpito dall'idea che i capolavori più straordinari forse del nostro tempo sono usciti non dai concorsi nazionali, da un'educazione modello, accademica, alla Broglie, ma dalla frequentazione dei recinti del peso e dei grandi bar. In ogni caso, le ragioni che in quei tempi a Balbec facevano desiderare a me di conoscerlo, ad Albertine e alle sue amiche che io non lo conoscessi, erano in pari misura estranee al suo valore e avrebbero potuto mettere in luce soltanto l'eterno malinteso di un intellettuale, rappresentato nella fattispecie da me, e della gente normale, rappresentata dalla piccola banda, sul conto di una persona mondana, il giovane giocatore di golf. Non presentivo affatto il suo talento. E ai miei occhi il suo prestigio, dello stesso genere di quello un tempo di Madame Blatin, era di essere, checché ne dicessero loro, amico delle mie amiche e più della banda di quanto non lo fossi io. D'altra parte, Albertine e André, simboleggiando in questo l'incapacità della gente normale di giudicare in modo attendibile le cose dell'intelletto e la sua propensione ad affidarsi in tale ambito alle false apparenze, non solo non erano lungi dal trovarmi stupido perché ero incuriosito da un simile imbecille, ma soprattutto si stupivano che, giocatore di golf per giocatore di golf, la mia scelta fosse caduta proprio sul più insignificante. Ancora avessi voluto fare amicizia con Gilbert de Belleuvre, che a parte il golf era un ragazzo che sapeva conversare, aveva avuto una segnalazione a un concorso nazionale e scriveva dei versi gradevoli. In realtà era stupido come pochi. Oppure se il mio intento era di fare uno studio in vista di un libro, Guy Saumois, che era completamente pazzo, aveva rapito due fanciulle, era almeno un tipo curioso che mi poteva interessare. Quei due me li avrebbero permessi, ma l'altro, ma che gusto potevo provarci? Era il tipo del bruto a prova di bomba, del bruto integrale. Per tornare alla visita di André, dopo avermi fatto quella rivelazione sui suoi rapporti con Albertine, aggiunse che la ragione principale per cui Albertine mi aveva lasciato era quel che avrebbero potuto pensare le amiche della piccola banda e altre ancora, vedendola abitare in casa di un giovanotto con il quale non era sposata. «Sì, lo so che era in casa di vostra madre, ma questo non conta. Non sapete cosa sia il mondo delle ragazze, le cose che si nascondono a vicenda, come ciascuna abbia paura dell'opinione delle altre». Ne ho viste di terribilmente severe con dei ragazzi semplicemente perché avevano paura che, conoscendo le loro amiche, venissero a sapere certe cose. E le stesse, poi, il caso me le ha mostrate, loro malgrado, completamente diverse. Qualche mese prima, la conoscenza che André sembrava avere dei momenti cui obbedivano le fanciulle della piccola banda mi sarebbe parsa la cosa più preziosa del mondo. Forse quello che diceva era sufficiente a spiegare come mai Albertine, che poi mi si era data a Parigi, mi si fosse rifiutata a Balbec, dove vedevo di continuo le sue amiche, cosa che, assurdamente, avevo creduto potesse avvantaggiarmi nei suoi confronti. Forse, anzi, proprio l'aver visto qualche mio moto di confidenza con André o il sospetto che io le avessi dato imprudentemente che Albertine avrebbe dormito al Grand Hotel aveva fatto sì che Albertine, la quale un'ora prima era forse pronta a lasciarmi prendere certi piaceri senza farsene alcun problema, cambiasse idea e minacciasse di suonare. Ma allora doveva essere stata facile con molti altri. Quest'idea risvegliò la mia gelosia. E dissi ad André che volevo chiederle una cosa. «Lo facevate in quell'appartamento disabitato di vostra nonna?» «Oh, no, mai! Ci avrebbero disturbate!» «Ah, credevo! Mi sembrava!» «Del resto ad Albertine piaceva farlo soprattutto in campagna.» «Dove?» «Una volta, quando non aveva il tempo d'andare lontano, andavamo alla Butte Chaumont. Lei conosceva una casa là, oppure sotto gli alberi, non c'è nessuno.» Nella grotta del Petit Trianon, anche. Ecco, come faccio a credervi? Mi avevate giurato, nemmeno un anno fa, di non aver mai fatto niente alle Butte Chaumont. E temevo di farvi soffrire,